Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, poi noi ci risentiremo martedì, lunedì infatti il palinsesto di Radio 24, un palinsesto chiaramente festivo. Borse oggi chiuse, tutte, sia quelle americane che quelle europee, listini quindi chiusi per le festività pasquali, riapertura anche per le borse chiaramente martedì prossimo, quindi non vi sarà l'approfondimento di borsa, questo è abbastanza pleonastico. Invece ricordo che come ogni venerdì da oltre un mese avremo la nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione, gli sprechi di denaro pubblico, perché poi pubblica amministrazione vuol dire le partecipate dallo Stato, i comuni, gli enti locali, le regioni e anche lo Stato centrale, fermo restando, come diciamo sempre, che ci sono tantissimi consiglieri comunali e regionali che fanno bene il loro lavoro e noi segnaliamo solo quelli che lo fanno male, o meglio che se ne approfittano. Non vogliamo fare il tonnerbo a un fascio, però il nostro lavoro è segnalare quello che non va in primo luogo, e la nostra classifica oggi, possiamo dire tranquillamente, va dalle Alpi alla Sicilia, perché comprende diverse regioni del paese. Dopodiché, come sempre, e come sempre facciamo, anche un imprenditore che si è rimesso in gioco e che ha deciso di sviluppare una sua attività, lo facciamo apposta per far capire che c'è un'Italia che non vuole cambiare. È un'Italia che invece accetta la sfida, non perché siano degli eroi, sono semplicemente le persone che non si piangono addosso. Allora sì, lunedì Wall Street in realtà è aperta, sono le borse europee che riprendono le contrattazioni martedì, ha ragione l'ascoltatore e ci mancherebbe, giusto precisarlo. Per quello che riguarda gli altri temi, oltre che la nostra classifica e gli esempi virtuosi, per non dire che tutto va male, ci occuperemo della nautica, non perché nel periodo pasquale riprende l'attività nautica, ma perché si è creata una vera frattura dentro l'associazione che rappresenta il settore nautico e che organizza poi il famoso Salone Nautico a Genova, che è l'appuntamento più importante in Italia e uno dei più importanti anche in Europa per un settore in cui noi abbiamo ancora quote di leadership. Pensate che nel settore nautico il livello di esportazioni tocca in molti casi il 90-95%, 93% come media, un fatturato decimato dalla crisi prima del 2007, cioè fino al 2007 il fatturato della nautica italiana superava i 6 miliardi di euro, con un mercato interno pari a 3 miliardi e uno estero pari a 3 miliardi. Adesso il mercato interno è scomparso, letteralmente, sono 200 milioni di euro, chiaramente questo è un impatto della crisi, resta l'export che appunto vale il 93% della produzione, ma complessivamente tutto il fatturato è calato, uno potrebbe dire anche crollato, a 2 miliardi e mezzo di euro. Perché? Ne parliamo perché appunto c'è stata una frattura tra i big della nautica italiana, Ferretti, Azimut, Benetti e Baglietto, con gli altri produttori. Cercheremo di capire che cosa sia successo. Ancora nella seconda ora del programma invece l'Expo. Allora, Radio 24, come alcuni di voi già hanno scoperto, ogni venerdì da qui fino al primo di maggio avrà un appuntamento sui lavori dell'Expo, per poi la settimana prima di maggio andare a quello che noi chiamiamo un viaggio vero e proprio nei cantieri dell'Expo e in quello che si sta completando. Certo, oggi però iniziamo proprio in occasione anche del nostro viaggio a fare il punto sullo stato del lavoro del padiglione, perché ci sono anche polemiche sul padiglione Italia, che comprende Palazzo Italia e altri edifici pubblici, sarebbe dovuto costare 63 milioni di euro pubblici. Adesso sembra che siano arrivati a 30 milioni di euro in più, cioè 93 milioni, il 50% in più. È stata trovata un'intesa sulla maggioranza dei costi, sulla maggiorazione dei costi dell'appalto per quello che riguarda il commissario unico di Expo 2015. Sala lo ha fatto sapere dopo una riunione di 10 ore tra i legali della società Expo 2015 e quelli di Italiana Costruzioni, che è la capofila che sta costruendo il padiglione Italia. Ancora, per quello che riguarda invece i temi di questa giornata economico-finanziaria, faccio notare che, come oggi ampiamente presente su Sole 24 Ore, dopo la campagna che il quotidiano Sole 24 Ore ha portato avanti per giorni, che noi abbiamo ripreso modestamente nei giorni scorsi, come ricordava anche il professor Ricolfi poco fa, ospite di Oscar Giannino, finalmente il Ministero del Lavoro e quindi il Ministro Poletti ha promesso che mensilmente fornirà i dati sull'andamento dell'occupazione. Perché questo? Perché c'era stata molta polemica, Ricolfi l'aveva battezzata l'embargo sui dati dell'occupazione, cioè non si riusciva a capire quanti veri nuovi occupati stessero arrivando, quanti invece fossero contratti semplicemente modificati da tempo determinato, da partita IVA, da Cocopro a tempo indeterminato, quale fosse il saldo finale, nel senso che il saldo va visto tra i contratti nuovi e i contratti che sono cessati. Ecco, e oggi appunto sul Sole 24 Ore è ampiamente presente il fatto che il ministro abbia accolto l'appello, ultima firma appunto quella di Luca Ricolfi. Saranno diffusi mensilmente i dati sui rapporti di lavoro attivi e cessati, tratti dalle comunicazioni obbligatorie, e saranno diffusi a partire da fine aprile, e allora potremo anche evitare molte polemiche, molto spesso di colore politico, e parlare di dati. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dall'economia internazionale e partiamo anche dal prezzo del petrolio, che sostanzialmente oggi è stabile. L'oro è a 1197 dollari l'oncia. Per quello che riguarda l'accordo iraniano, già ieri abbiamo fatto una lunga analisi su questo. C'è una componente soprattutto geopolitica di portare gli sciiti, l'Iran dentro per combattere anche l'ISIS, c'è una componente anche economica, perché a questo punto, se l'embargo verrà completamente, l'accordo verrà definitivamente firmato al 30 giugno con le specifiche tecniche, però 1 milione di barili in più di petrolio iraniano al giorno potrebbero arrivare sul mercato, visto che prima dell'embargo ne produceva 2,5 milioni, scesi adesso a 1 milione, poco più di 1 milione, quindi almeno 1 milione di barili di greggio in più dovrebbero arrivare sul mercato. Tra l'altro il greggio iraniano è un greggio di altissima qualità, come tutto il greggio della penisola araba. Sempre sul fronte dell'economia internazionale, gli Stati Uniti, 126.000 posti in più di lavoro creati nel mese di marzo, che è un dato inferiore a quanto non fosse atteso. Ci si aspettava un dato quasi doppio di 250.000 posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è stabile al 5,5%. L'euro, dopo questa notizia, si è rafforzato nei confronti del dollaro, adesso è arrivato fino a 1,10, adesso è 1,09, quindi sui massimi dal 6 marzo. Il ragionamento è che se l'economia americana non dovesse creare i posti di lavoro attesi, forse la Federal Reserve potrebbe aspettare ancora più mesi, ancora più tempo, prima di rialzare i tassi di interesse previsti per più o meno la mossa dovrebbe arrivare a settembre. Sui dati del lavoro degli Stati Uniti si concentrano i 100 secondi di oggi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che vanno in onda anche con Radio Dimensione Suono. La firma di oggi è quella del vice direttore del Sole, Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Mentre in Europa il quadro della disoccupazione rimane preoccupante, dall'Italia alla Spagna, in America ci sono dei segnali di stabilizzazione. Anche se i nuovi posti di lavoro creati nell'ultimo mese sono stati soltanto 126.000 in più, tanti per noi, ma evidentemente pochi per quanto pensano gli economisti, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5,5%. Le imprese americane hanno un po' rallentato le assunzioni, però hanno fatto qualche cosa di più per i loro dipendenti. Le grandi corporation, dalla grande distribuzione, pensiamo alla ristorazione, come per esempio McDonald's, ma anche i suoi concorrenti, hanno aumentato gli stipendi orari dei propri dipendenti, un modo per restituire quel boom di profitti che hanno fatto negli ultimi anni. Ma che cosa significa per noi questo tasso di disoccupazione stabile degli Stati Uniti? Significa che i mercati finanziari continueranno probabilmente a brindare al quantitative easing della BCE e al denaro facile ancora della Federal Reserve. Il rialzo dei tassi, con la disoccupazione stabile al 5,5, è infatti rinviato, probabilmente a fine anno. Questo significa che per i nostri BTP, per i bono spagnoli e in generale per il mercato dei titoli di Stato e per quello dell'azionario, potrebbero continuare nei prossimi mesi il trend positivo che abbiamo visto finora. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E dagli Stati Uniti alla Grecia, il volo è un po' pindarico. Comunque, secondo la stampa britannica, oggi il governo greco starebbe preparando un piano per nazionalizzare le banche e utilizzare una valuta parallela all'euro per i pagamenti interni. È un'indiscrezione del Daily Telegraph che cita fonti del partito di governo Syriza, quello del premier Tsipras. Nel frattempo il vice ministro delle finanze greco Dimitris Mardas ha detto: siamo pronti a pagare il 9 aprile, è la tranche che la Grecia deve pagare al Fondo Monetario Internazionale. Perché deve pagarla? Perché se non paghi una tranche finisci nella lista, diciamo, dei non pagatori in default. Ha aggiunto il vice ministro delle finanze: le entrate di marzo hanno superato le previsioni, le nostre previsioni, poi vi sono progressi nel negoziato con i creditori internazionali. L'Italia, allora, l'Istat oggi fotografa un mercato delle abitazioni i cui prezzi nel 2014 sono calati molto, molto, perché, come vi spieghiamo spesso quando parliamo del mattone, la variazione di meno 1, meno 2, meno 3 è una variazione molto significativa, non è come per la borsa dove le oscillazioni sono molto più forti. Allora, meno 4,2% nel 2014 in media i prezzi delle abitazioni in Italia rispetto al 2013. Già nel 2013 c'era stato un meno 5,7%. Il calo è dovuto a una riduzione del 5% dei prezzi delle abitazioni esistenti, che fecero nel 2013 un meno 7%, e del 2% anche di quelle nuove. 2,2 calarono del 2,4 le nuove abitazioni nel 2013. Nuovo dato altalenante sui consumi, anche se il trend, quindi il tendenziale, l'anno su anno resta buono. C'è stato un calo dello 0,1% a febbraio rispetto a gennaio, ma a noi interessa sempre l'anno su anno. Rispetto a febbraio 2014 i consumi segnalano una crescita dello 0,4%. Ripeto, per evitare facili così entusiasmi o critiche, il dato è un dato su consumi che sono stati massacrati tra il 2009 e il 2013. L'elettricità, i consumi elettrici, che sono sempre un indicatore anticipatore del ciclo economico, comunque continuano a dare segnali positivi. La domanda di energia elettrica, come ha riferito Terna, che è il gestore della rete nazionale, è stata di 26,5 miliardi di kilowattora, più 1,1% rispetto a un anno prima, ed è l'incremento più alto da 31 mesi, dall'agosto del 2012. Il neo ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio oggi si è insediato, tutti riportano in bicicletta, va bene, ma non interessano anche altri elementi. Con un lavoro paziente ma serio metteremo in fila tutte le cose, noi dobbiamo fare le cose cominciate e portarle a termine, così appunto il neo ministro. L'Italia è casa nostra, le opere pubbliche e i soldi pubblici nella nostra testa sono come i soldi privati, anzi contano di più. A noi dobbiamo lavorare perché è tutto, come dire, per fare un ragionamento molto trasparente su tutte le cose, per prendere decisioni molto condivise, i cui elementi siano a conoscenza di tutti, e quindi io credo che con un lavoro paziente ma serio metteremo in fila tutte le cose, come quando si fa un lavoro in casa, no? Nessuno lascia, noi dobbiamo fare le cose che sono cominciate e portarle a termine. Nessuno inizia a riparare la cucina e poi la lascia a metà, la porta a termine, la cura con attenzione, guarda come vengono eseguiti i lavori, li controlla, fa in modo che i preventivi corrispondano alla spesa finale, giusto? in casa vostra tutti voi fate così e io farò così, come ho sempre fatto anche da sindaco. Le opere pubbliche e i soldi pubblici nella nostra testa sono come i soldi privati, anzi di più. Parlato anche dell'Expo del Rio, lo ascolteremo nella seconda ora quando ci occuperemo dell'Expo. Ha detto, abbiamo fatto il punto con il Presidente del Consiglio e con il Presidente dell'Autorità Anticorruzione Cantone. Sull'Aquila del Rio ha detto, l'Aquila ha molte risorse a disposizione che abbiamo stanziato come governo, ce la farà, la ricostruzione va molto bene e la struttura tecnica di missione resta il Ministero delle Infrastrutture. E non solo resterà qui, ma porteremo le unità di missione della scuola del dissesto idrogeologico che coordiniamo da Palazzo Chigi, perché il Presidente del Consiglio vuole che ci sia un unico coordinamento dei lavori pubblici. Ancora una notizia, la Procura di Milano ha chiuso le indagini nei riguardi degli ex dirigenti della banca Monte dei Paschi di Siena, accusati di falso in bilancio e manipolazione, sono vari filoni di questa inchiesta, questa è quella milanese, e manipolazione del mercato in relazione al bilancio 2009 dell'istituto, quello approvato nel 2010. Secondo l'accusa, i vertici, quindi a partire da Musseri, avrebbero occultato perdite per oltre 300 milioni di euro. Ho detto ultima notizia e mi sono sbagliato, perché c'è un caso molto strano che sta emergendo sul fronte della previdenza dei ferrovieri. Allora, il 96% delle pensioni dei ferrovieri del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato in pagamento nel 2015, vecchiaia e anzianità, subirebbero una riduzione se venissero calcolate con il metodo contributivo. Quindi il 96% delle pensioni dei ferrovieri è superiore ai contributi versati. È emerso dalle operazioni Porte Aperte INPS, in cui si capisce che quasi un assegno pensionistico su tre dei ferrovieri si ridurrebbe di oltre il 30% se venisse calcolato col metodo contributivo. Faccio notare che il Fondo Speciale Ferrovie dello Stato, il Fondo Pensione, ha avuto nel 2013 una perdita di 4 miliardi e 200 milioni. E a questo proposito iniziamo con la nostra poco invidiabile classifica. È il caso di dire che ripartiremo da dove ci eravamo lasciati, perché qualcuno ricorderà che venerdì scorso al primo posto mettemmo la vicenda del presidente dell'ANAS, mi sono legato Ciucci. Da questo punto di vista poi Ciucci è stato nostro ospite lunedì, ha chiarito che non era vero che lui aveva fatto ricorso a se stesso, poi però ha anche chiarito tante cose, tante dichiarazioni. Ce n'è una che però ha indispettito alcuni ascoltatori che ci hanno poi fornito del materiale. Comunque, la poco invidiabile classifica di Focus Economia. La classifica della settimana. Sì, ripartiamo da Ciucci. Per una nota, in realtà qui non c'è un problema economico, ma l'abbiamo messa al quinto posto perché onestamente ci hanno segnalato molti ascoltatori in merito a una dichiarazione che poi assieme ad altre tutte le agenzie hanno ripreso, del presidente e amministratore delegato dell'ANAS, quando gli chiesi se alla fin fine, visto che lui è tantissimi anni che è lì, 29 anni che è lì, vado a memoria però perché comunque ha iniziato lì, rimaniamo tutta la scheda dei Ciucci. Detto questo, se non fosse necessario obbligare un po' come marescialli delle stazioni dei carabinieri allo spostamento dopo un po' di anni, perché quando tu gestisci appalti, lavori pubblici, sanità, il rischio è troppo alto. È chiaro che rischi anche di mandare via delle persone obbligatoriamente, fare ruotare, non mandare via, fare ruotare anche persone competenti, però è troppo alto il rischio in chi, come la vicenda in calza dimostra, sta in alcuni luoghi cruciali per troppi anni. Ora Ciucci ci rispose in questo modo. Io sono perfettamente d'accordo con lei e dicevo anche prima che sia corretto e auspicabile una mobilità, no, e un ricambio ai vertici di tutte le aziende. Quello che ho rilevato è che questa possibilità l'azionista l'ha sempre avuta e che non si può trasformare in una colpa di chi è stato rinnovato in una certa carica più volte. E noi che come ANAS abbiamo una rete articolata sul territorio e abbiamo diversi compartimenti, direzioni regionali, noi applichiamo, io applico questa regola della turnazione interna degli incarichi. Ancor prima che, come lei sa, nel decalogo che riguarda recentemente predisposto dal MEF e dall'autorità anticorruzione per il piano di prevenzione della corruzione, noi in anticipazione rispetto a quello attuiamo la rotazione del personale. Quindi questo per condividerlo, ripeto, io sono nominato da un azionista, davanti a una conferma. Non ho capito, ma voi in ANAS applicate la rotazione del personale? Sì, esatto. Allora, così Presidente Ciucci, che da 9 anni, qualcuno ha capito, 9 anni all'ANAS. Beh, ci hanno segnalato molti ascoltatori che insomma non è la rotazione l'ha chiesta, come ricordava anche Ciucci, lo stesso Presidente Cantone, no? Dell'autorità anticorruzione. Però insomma poi cercheremo di capire, perché ripeto, questo non è una valutazione sul merito, ma se uno dice noi applichiamo la rotazione, magari ci spiegasse perché il capo dell'ANAS in Umbria da oltre 6 anni è Raffaele Spota, il capo della segreteria affari societari è Cristina Basili da 10 anni, Beppe Scani da 10 anni è capo delle relazioni esterne, Mario Avagliano da 10 anni è capo dell'ufficio stampa, Daniele Tornusciolo da anni la condirezione generale legale e patrimonio e a capo dell'unità gare e contratti, gli appalti. Mauro Frattini, da anni responsabile unità acquisti di ANAS. Carlo Ranucci, vice direttore e poi direttore delle risorse umane da oltre 5 anni. Non è che sia una gran rotazione su questi livelli. Vabbè, andiamo al quarto posto e qui iniziano i dolori. Perché dico quarto posto? Liguria, è tempo di non elezioni ma di liste, di accordi elettorali in Liguria, ma l'ultimo colpo di coda dei 40 consiglieri regionali liguri, che già in passato avevano dovuto subire anche inchieste, è una sorta di prolungata vacanza dove però manterranno i propri monumenti, che significa sostanzialmente uno stipendio che è composto da una parte fissa di 8.800 euro lordi e una diaria tra i 2.200 e i 4.800 euro lordi mensili, sempre al mese. Il netto complessivo quindi oscilla tra i 6.300 e gli 8.900 euro. Continueranno ad essere erogati perché nonostante si voti il 31 maggio, c'è uno scollamento a livello che a livello centrale nessuno ha mai ritenuto di correggere, cioè il Consiglio ha pieni poteri dalla data delle elezioni fino allo scadere dei 5 anni e quindi dovrebbe scadere, ma i titolari delle cariche elettive, quindi i consiglieri, restano consiglieri anche quando non esercitano più la loro funzione per un periodo diverso, cioè il mandato è valido dal giorno del primo insediamento fino all'ingresso con pieni poteri della nuova assemblea. E quindi il mandato è di fatto dimezzato, ma lo stipendio verrà pagato per quasi un mese. Ma infatti è la quarta notizia. Al terzo posto invece, qui non è uno spreco in senso stretto, ma è la cattiva, bruttissima abitudine di alcune nostre università in cui ci sono più baroni che docenti. Perché lo dico? Insomma, questa è una vicenda assurda. C'è una causa che dura da 9 anni quasi, 8 anni e 6 mesi, della ricercatrice Rosanna Mallamaci alla facoltà di farmacia. È una vicenda che è iniziata nel 1998, definitivamente si è conclusa con la pronuncia del Consiglio di Stato che ha ordinato il risarcimento dei danni da quantificare che deve pagare l'Università di Bari e quindi sostanzialmente noi in favore della donna. Ci sono stati 6 ricorsi che contrapponevano da una parte la dottoressa Rosanna Mallamaci e dall'altra la figlia dell'allora direttore del Dipartimento di Farmacia, Valentina Stipani. Hanno partecipato allo stesso concorso. Secondo voi chi ha vinto delle due? Dopo il meteo e la pubblicità, la risposta. Focus Economia. Più la classifica della settimana. Di nuovo in diretta, e chiaramente ha vinto, in riferimento al quarto al terzo posto della nostra classifica, ha vinto la figlia dell'allora direttore del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Bari, Valentina Stippani. Ricorsi, 6 ricorsi di chi ha perso, Rosanna Mallamaci, e nonostante, tra l'altro, a sollecitare i ricorsi erano stati gli stessi giudici amministrativi che avevano parlato di abusi, evidenziando l'intento della scrivono così i giudici amministrativi della Corte dei Conti, evidenziando l'intento della facoltà di farmacia dell'Università di Bari di conservare il posto alla figlia di un suo docente. Durante l'iter, 2 componenti delle commissioni si sono dimessi e poi sono state riscontrate numerose irregolarità. Nel settembre 2006 la Mallamaci finalmente vince la cattedra, ma la sua concorrente presenta un nuovo ricorso. Quindi adesso il TAR della Puglia, anzi, decide di chiedere all'università il risarcimento dei danni patiti per la ritardata assunzione e il pagamento di quanto avrebbe dovuto percepire se avesse rivestito in quel tempo, in tempo, quell'incarico. Quindi poi il gioco è, diciamo, tra le due, ma il conto lo paghiamo noi. Bene, va bene così. Secondo posto, tutti penseranno, il primo è la Sicilia. No, la Sicilia questa settimana è al secondo posto. Il primo c'è la Val d'Aosta, così proprio facciamo tutta la penisola. Allora, vi ricordate l'affare dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali? Beh, insomma, ad Agrigento, dopo che lo raccontammo, uscì su alcuni giornali, ci fu una protesta anche spontanea davanti al municipio. Adesso la Guardia di Finanza e le inchieste della Procura hanno messo a punto la mappa vera e propria. Allora, andiamo con ordine. Ad Agrigento si erano riuniti i consiglieri agrigentini 1113 volte nel 2014, 3 volte al giorno, tutti i giorni, ma neanche Stakhanov, Natale e Ferragosto compresi, una roba pazzesca. Ogni presenza in commissione veniva infatti rimborsata con un gettone pari a 50 euro per un totale di 285.000 euro. A Siracusa i consiglieri hanno un gettone di 65 euro e mezzo a seduta. Nel 2014 si sono riuniti 1200 volte nelle commissioni consiliari con un costo di 720.000 euro, che però diventano quasi 1 milione di euro se si aggiungono le sedute convocate tra settembre e dicembre 2013. Casualmente tutti i consiglieri comunali di Siracusa sono riusciti a raggiungere la cifra massima di rimborso mensile, pari a 1.700 euro. Tra l'altro, la legge regionale non prevede che ai capigruppo dei vari partiti vengano rimborsate anche le presenze in commissione, perché sei già capogruppo, ma Siracusa ha fatto finta di nulla e sono usciti altri 152.000 euro per i capigruppo. E infatti poi è aperta un'inchiesta alla Procura. A Messina il gettone per ogni riunione è fissato a 56 euro. Ma le riunioni sono costate 900.000 euro in totale. A Gela ogni consigliere ha un rimborso di 60 euro a presenza. Nel 2014 1.326 riunioni per un costo totale di 432.000 euro. Sono quasi 4 riunioni al giorno, incluse le festività, i sabati e le domeniche. Poi Marsala, a Marsala se la prendono bene, ogni seduta 99 euro vale, per un massimo di 1.500. Poi c'è Mister Bianco. Allora, a Mister Bianco c'è un problema che avevamo già visto ai tempi della giunta regionale di Cota in Piemonte, perché c'è il famoso dono dell'ubiquità, il teletrasporto, nel senso che alcuni consiglieri riescono a essere presenti in più commissioni allo stesso tempo. E comunque 400.000 euro costo per le riunioni. Pensate che di questi 400.000 euro 38.000 euro per le riunioni dei consigli comunali di Mister Bianco sono stati pagati ad agosto, solo dal mese d'agosto. Vuol dire che ad agosto, mentre l'Italia va in vacanza, uno immagina che in Sicilia, in provincia di Catania, anche lì si godono l'estate, niente, staccano duro pure lì a 38.000 euro. A Enna sono riusciti a fare un piccolo capolavoro, perché negli ultimi 2 anni si sono ridotti il gettone di presenza da 56 a 51 euro, più che apprezzabile. La spesa annuale però si è alzata, questo è il mito, no? Da 320 a 360.000 euro, perché da un lato hanno ridotto i gettoni di presenza, ma poi hanno aumentato le riunioni delle commissioni fino ad arrivare a quota 720 e tra gennaio e febbraio i consiglieri di Enna si sono già riuniti 81 volte, cioè praticamente se levi le festività di sabato e la domenica tutti i giorni riuniti. Poi a Palermo, è capoluogo di regione, quindi 50 consiglieri eletti nel capoluogo hanno diritto a un gettone di 156 euro, il triplo di vari comuni della Sicilia, è seconda la cifra solo al comune di Verona. Però nel comune di Verona il tetto massimo che uno può prendere, non c'entra quante riunioni fai, quanti consigli partecipi o commissioni consigliari partecipi, al massimo vai a 1.400 euro. A Palermo invece si può arrivare fino a 3.260 euro al mese, con la conseguenza che il consiglio comunale di Palermo costa 5.200.000 euro. E praticamente costa 1 milione in più di Milano, che ha il triplo degli abitanti di Palermo. Se tutto questo vi sembra normale, se va bene così. Chiudiamo in leggerezza, ma non voglio rovinare il weekend pasquale, forse l'ho già fatto agli ascoltatori. Andiamo alla Val d'Aosta. Qui c'è una sentenza che è molto interessante, perché vabbè, intanto devo dare il premio, dimenticavo la sigletta. The winner is... And the winner is... a Val d'Aosta. Perché? Dico perché il tribunale ha assolto 24 consiglieri regionali qui alla regione in rappresentanza dell'intero arco costituzionale, salvandoli dalla restituzione di complessivi 607.000 euro. Ora, non è che il tribunale non dica che vi siano state spese assurde, gli imputati avevano comprato di tutto con questi soldi. Il tribunale ha detto che mancava l'elemento soggettivo del reato, e cioè, ecco, il tecnico di regia mi guarda strano. L'elemento soggettivo del reato vuol dire sostanzialmente che gli imputati non sapevano che comprare con soldi, che non si potevano comprare quegli oggetti con soldi pubblici, che fosse un reato, e quindi il giudice ha detto, manca la consapevolezza, l'elemento soggettivo del reato, cioè non sapevi per esempio che comprare con i soldi pubblici e mettere in nota spese un motorino da mettere nella tombola di Natale non si poteva fare. Dei soldi del partito, la tombola di Natale era del partito, eh? Poi chi l'ha vinta è stata ombra, giusto per sapere. E poi non sapevano che non si potevano pagare cene di lusso a base di mazzancolle fresche. Ma come cavolo si fa a mangiare le mazzancolle in Val d'Aosta? Ma almeno mangiatevi, vabbè, fatte arrivare per l'occasione, beh, sennò che fresche erano. Come non sapevano che non si potesse mettere nello scontrino la carne di capra, appunto il motorino, o 24 attori per una fantomatica festa della Calabria in Val d'Aosta, ma 24 attori per la festa della Calabria in Val d'Aosta spendendo 40.000 euro. Così come non potevano immaginare che non fosse consentito mettere in nota spese per l'attività politica il volo per Roma per la moglie, e non potevano immaginare che non si potesse mettere nella nota spese per l'attività politica la targa in alluminio per il citofono di casa o i muratori pagati per i lavori in casa, e magari non so se in casa ci fosse anche la consorte che poi è volata a Roma. Insomma, non lo sapevano, e hanno venuto in mente una cosa molto molto triste. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio. Looking for the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Beata la caverna di Platone, l'ignoranza, non lo potevano sapere. E va bene, prendiamo atto. John Belushi ci è arrivato molto prima in quel passaggio bellissimo di Blues Brothers. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito della radio, le mazzancolle in Val d'Aosta. A quando la fontina a Palermo? A breve. Traffico intanto. Focus Economia. Are you with me? Are you with me? J Giorgio De Nunzio, amministratore delegato di Adam, buonasera. Buonasera. Ha sentito? Ha sentito? Ho sentito sì. Lei sa... Più scoraggiante o ridicolo sentire questi avvenimenti, insomma? Beh, comunque... è scoraggiante perché è ridicolo. Dopodiché qualcuno mi dice il giudice era un parente di un imputato. Non lo sappiamo, non so chi sia il giudice, onestamente. Certo che la sentenza è un po' strana, però ce n'è anche per la Puglia oggi. Allora, lei è l'amministratore delegato di Adam, che sta per Advanced Data Analysis in Medicine, ed è nata nel 2013 a Lecce, quindi vorrei capire che cosa l'ha portata alla pazzia, forse il non sapere, creare una società che, se ho ben capito, è attiva nel biomedicale, software medici, proprio a Lecce. Chi l'ha aiutata e come è andata? Perché l'atto di coraggio noi lo apprezziamo sempre. Prego. L'atto di coraggio c'è stato sicuramente. Noi, appunto, Adam e Advanced Data Analysis in Medicine, quindi ci occupiamo di software per la medicina. Ricerca, sviluppo, risoluzioni software per la medicina. Il coraggio c'è stato perché noi ovviamente non nasciamo certo come imprenditori, nasciamo come ricercatori universitari e quindi la nostra mission è ben diversa e soprattutto la nostra formazione è ben diversa, la nostra forma mentis è diversa. Quindi coraggio ci è voluto per cambiare, per lasciare il cappello del ricercatore per un po' e provare a mettere in testa quello molto più scomodo per noi dell'imprenditore. Però forse quella è la direzione giusta. Cioè, mi stai dicendo che è più difficile fare l'imprenditore che il ricercatore? Sicuramente per un ricercatore lo è, perché ha passato una vita a fare altro e quindi passare dalla ricerca scientifica alla ricerca di mercato e quindi andare a trovare una nicchia in cui infilarsi con dei prodotti che possono vendere sicuramente non è cosa facile. Come mai, che cosa l'ha spinta di decidere passo da ricercatore a imprenditore? Innanzitutto c'è una storia di ricerca alle spalle su questi argomenti, cominciata ormai 10 anni fa insieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, proseguita con l'università, quindi c'è tutta una storia che ha dato le basi. A un certo punto c'è stata una storia di ricerca molto interessante fatta con l'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, proprio su ciò che ci ha portato poi ad avere il nostro primo prodotto, ma soprattutto a farci decidere, una volta ottenuti dei risultati interessanti, è stato vedere che la carriera universitaria per molte persone che ruotavano intorno al gruppo sarebbe stata sicuramente impossibile. Purtroppo l'università in questo periodo è abbastanza chiusa e questo è scoraggiante, cioè vedere tanti giovani che lavorano per anni e anni magari con assegni di ricerca, con situazioni così precarie e poi vedere sbarrata la strada. Cioè lei non riusciva ad andare oltre in università come ricercatore o a sviluppare la stessa idea dentro l'università, ho capito bene? No, non è esattamente così. Per la ricerca personalmente non avevo problemi in quanto ormai strutturato e quindi tranquillamente sistemato nell'università. Il problema era per chi lavorava con me che non vedeva via di sbocco. E allora l'idea è nata di provare a fare qualcosa di diverso, di costruirsi il lavoro con le proprie mani, con le proprie idee, in modo da avere un'alternativa, soprattutto per i giovani. Allora, voi siete riusciti a sviluppare software medici, tra questi GlioCAD, che localizza e misura i tumori, fornendo immagini di diagnostica medica. Sostanzialmente, se ho ben capito, il programma gestisce tutto un insieme immenso di dati e li mette, li aggrega. Avete avuto anche un interessamento da parte degli ospedali universitari dell'Oklahoma e di Oporto, capito bene? Sì, esatto. No? Diciamo che il nostro software, appunto, come le dice, è un sistema che prende le immagini di risonanza magnetica, le studia, va a individuare il tumore al cervello, quindi il glioma, lo contorna, ne dà una volumetria e così via, lo misura essenzialmente. Questo è fondamentale perché sia a livello di diagnosi ma soprattutto a livello di follow up, quindi durante la cura, è importante sapere se il tumore regredisce o progredisce o è stabile. Ora, il sistema che abbiamo realizzato è automatico, fa questa cosa che normalmente i medici nel momento in cui vogliono farla per bene hanno necessità di impiegare molto tempo, che sicuramente può essere impiegato per altro, quindi un sistema automatico può fare. Allora, adesso poi continuiamo l'intervista anche dopo il GR, perché mi interessano i casi virtuosi, sennò veramente mi deprimo anch'io oggi, altro che via crucis. Però dico, in quanti siete adesso e chi vi ha prestato i soldi? Allora, il gruppetto è composto di circa 6 persone più qualcun altro che ruota, diciamo, intorno a noi, che dà un aiuto, che dà con delle consulenze e così via. Noi siamo potuti partire in realtà grazie alla Regione Puglia, quindi la virtù c'è stata. Oh, si fermi qua. Oh, una cosa virtuosa, qua bisogna veramente fare uno sforzo, no, virtuosa sul, in questo caso sulla regione Puglia. Poi mi racconta com'è andata dopo il GR24, 349 238 6666 per i vostri SMS, visto che siamo anche in clima pasquale, mi dia anche un messaggio di speranza per tutti i ricercatori italiani che appunto non sono figli di baroni, di direttore dei dipartimenti di farmacia come l'Università di Bari. GR24. Focus Economia. Alle 18:07 minuti riprende Focus Economia. Dunque, vorrei concludere l'intervista, chiamiamola positiva, la parte positiva del venerdì, visto che la classifica degli sprechi è tutt'altro che positiva, con l'ospite di questo venerdì, Giorgio De Nunzio, amministratore delegato della ADAM, ricercatore che poi ha deciso di mettersi in proprio e sviluppare una società che fa software medicali assieme a altri 6 dipendenti, ci diceva, e 2 collaboratori. I soldi ve li ha dati la Regione Puglia, questa è una buona notizia visto che parliamo spesso male delle regioni. Prego, mi racconti. Sì, in effetti noi abbiamo avuto un'ottima esperienza da questo punto di vista, perché la gestione dell'innovazione in Puglia credo sia fatta bene, insomma la nostra esperienza, ma non solo la nostra. Bene. Noi abbiamo partecipato nel 2012 alla Start Cup. La Start Cup è una competizione per imprese innovative. Ogni regione ha la propria Start Cup, noi abbiamo partecipato alla nostra Start Cup Puglia. Nel 2012 abbiamo avuto il primo premio. In effetti sia il premio di categoria per la salute sia il premio assoluto. Quanto valeva? Erano in tutto 15.000 euro, quindi una fettina di denaro che ci è servita per poi nel 2013 costituirci essenzialmente, darci quella spinta che altrimenti magari non avremmo avuto. Quindi siamo partiti in questo modo, con questo premio. Abbiamo avuto in seguito anche altri aiuti, perché questo denaro destinato all'innovazione nella regione Puglia è gestito dall'ARTI, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, appunto, e l'ARTI concede dei voucher per consulenze, quindi legali, proprietà intellettuale, marketing, indagini di mercato, quindi sono tutte situazioni che comportano delle spese che per noi, per fortuna, sono state risparmiate grazie a questi voucher. È stato questo. Quanto avete investito fino adesso? Tramite questi voucher abbiamo, adesso non saprei dire la cifra sicura, però sono svariate decine di migliaia di euro. Adesso non saprei quantificare esattamente. Ma iniziate anche a fatturare? Stiamo cominciando a fatturare adesso, finalmente, nel senso che i nostri software hanno bisogno di lungo test presso i potenziali clienti, quindi questo purtroppo non ci porta ad avere una soluzione chiave in mano che si venda con facilità, però stiamo cominciando a fatturare e non soltanto speriamo adesso di poter vendere finalmente il nostro sistema di computer assisted detection per i gliomi, il famoso GlioCard, ma anche di realizzare software on demand, diciamo, cioè richiesta direttamente da medici che possono essere interessati a determinate applicazioni. In questo momento stiamo infatti chiudendo un contratto proprio su un software realizzato in questo modo, su tutt'altra patologia, la fibrosi polmonare, con l'Università di Parma. Quindi diciamo siamo avviati e avendo anche, a parte queste situazioni di cui ho parlato, questo premio eccetera, avendo anche avuto un finanziamento adesso vinto sempre tramite bando pubblico e tutto quanto da parte della regione, dovremmo finalmente cominciare adesso ad avere anche qualche persona che lavorerà per noi oltre a noi stessi soci. Quanti anni ha lei? Io ormai mi avvicino alla cinquantina, quindi non sono certo un giovane ricercatore. Non è più un giovane ricercatore. E no. I suoi dipendenti, i soci? I soci hanno età che variano dai 40-35 anni, più o meno, grosso modo. Quindi non siamo giovinetti. No, questo per sfatare un mito che la startup la possa fare solo un giovane. Anche la settimana scorsa avevamo avuto una persona che non era più giovane, non si offenda, ma è anche un modo per cercarsi un altro lavoro, è brutto dirlo così, ma è questo, certo, quando resti poi incagliato, come lei diceva, non tanto nel suo caso, ma in quello dei suoi collaboratori in un'università che non ti dà più sbocchi. In bocca al lupo a lei, a tutti i dipendenti e a tutti gli italiani di qualunque età, sesso, genere, grazie, che si mettono in gioco e in questo caso hanno anche delle esperienze virtuose da raccontare nei confronti dell'amministrazione pubblica. In bocca al lupo a tutti, non dico altro invece su i casi citati prima. Oh, parlare di tempesta quando si parla del mondo della nautica e del mare sembra quasi un gioco di parole. In realtà qui siamo di fronte a una tempesta, non dico perfetta, e non è una tempesta di carattere meteorologico marino, ma c'è una spaccatura in corso in un settore che è già stato molto penalizzato dalla crisi, il settore della nautica italiana. A me non interessano le battute sugli yacht, i ricchi, parliamo di un settore che valeva prima della crisi 6 miliardi di euro, che vedeva molte delle imprese italiane della cantieristica nautica essere all'avanguardia e leader nei loro settori, massacrato dal crollo dei consumi interni dovuto sia alla crisi sia al famoso decreto di Monti a suo tempo. Praticamente è scomparsa la domanda interna nella nautica, si è passati da 3 miliardi del 2008 a 200 milioni nel 2014. Ciò che resta è l'export, tant'è che il settore ormai esporta il 93% della produzione e riesce a fatturare 2 miliardi e mezzo di euro. La sola cantieristica vale 1 miliardo e 300 milioni di euro. Che è successo? È successo che Lucina, che è l'associazione di categoria e che organizza l'importantissimo Salone Nautico a Genova dal 30 settembre al 5 ottobre, ha visto una frattura. Sono usciti i big del settore come Ferretti, Azimut, Benetti e Baglietto. Allora, siamo in collegamento da un lato con Carla De Maria, presidente di Ucina Confindustria Nautica. Sono in tutto 340 aziende per 8.000 dipendenti. Buonasera, presidente. Buonasera a lei. E grazie anche all'avvocato Alberto Galassi, che è amministratore delegato del gruppo Ferretti e anche presidente, ma non c'entra con questo caso, di Piaggio Aerospace. Buonasera anche a lei, Galassi. Buonasera a lei, radioascoltatore. Allora, che cosa è successo? Perché siete usciti? Perché voglio dire, questo paese ha bisogno di tutto tranne che di divisioni e guelfi, ghibellini e lotte interne. Perché siete usciti da un settore che in realtà ha bisogno anche di un rilancio, e quindi da quello che capisco forse anche, non dico in gioco, ma rischia di essere particolarmente dimezzato il Salone Nautico di Genova. Prego, Galassi. Buonasera. Dunque, noi siamo usciti perché non siamo riusciti a portare all'interno un cambiamento. Purtroppo lei ha detto nella chiusa del suo validissimo, chiarissimo esposto, lei ha detto una cosa giusta. Genova, il Salone di Genova purtroppo era l'obiettivo principale, è rimasto l'obiettivo principale di Ucina, l'organizzazione dello stesso. Il Salone di Genova, ahimè, non rappresenta più il mercato, che è il mercato fondamentale. Il Salone di Genova l'anno scorso ci ha visti partecipi, quest'anno non ci vedrà partecipi perché la nautica italiana non esiste. Ucina è un'associazione che alla fine si è un po' trincerata su se stessa. Le collaborazioni, le idee, le proposte di miglioramento che abbiamo fatto con il presidente Vitelli, di Aldo Benetti, Beniamino Gavio, che è un imprenditore italiano di grande successo e importanza, che ha investito da italiano nella nautica, non ci hanno visto, come si può dire, ascoltati, o quantomeno con un difetto di forma. Abbiamo comunicato alla stampa questa volontà di cambiamento prima di comunicarla all'interno dell'associazione. L'associazione si è chiusa a riccio, perché quando è ora di difendere un privilegio, quando è ora di difendere, si può dire, un'immutabilità delle cose, purtroppo in Italia succede che ci si trincea. Allora, lei rappresenta il gruppo Ferretti, che ha una presenza in 80 paesi, siete leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht di lusso, avete marchi come Ferretti, appunto Riva, Pershing, Itama, Bertram, Mocky Craft, Custom Line e CRN. Mi scusi, cosa intende dire quando dice tutelare i propri privilegi? Questo non capisco. Glielo dico subito. In Ucina è un'associazione dove alla fine è molto rivolta all'interno. Il mercato nautico è totalmente rivolto internazionale. Oggi verso all'esterno, verso l'estero, Ucina non ha fatto nulla. L'idea di spostare o di modificare la data del Salone di Genova, terzo su tre saloni, il primo viene a Monaco, il primo viene a Cannes il primo di settembre, il secondo viene a Monte Carlo, il terzo viene a Genova. Tre saloni nautici nell'arco di un mese, dove Genova è il terzo dei tre, necessariamente parte perdente. Abbiamo proposto un cambiamento, abbiamo proposto altre località, abbiamo proposto la possibilità che ci fosse un modificare Ucina e le sue strategie verso le nuove realtà del mercato. Il mondo non è lo stesso. Ferretti prima della crisi fatturava 1.100.000, oggi fattura 350 milioni. Da 1.100.000 a 350 milioni. Certo, ed è tutto 70% in meno. Allora, certo. Allora, ho capito benissimo. Dunque, noi ci siamo occupati molte volte dei saloni, delle fiere, e ne abbiamo parlato anche recentemente con il vice ministro Calenda, che per quello che riguarda le presenze all'estero ha detto o noi scegliamo 10, se non ricordo male, fiere a cui dare soldi pubblici per promuovere Made in Italy, e alle altre diciamo di aggregarsi. Sintetizzo in maniera un po' brutale, cioè basta con troppe fiere che fanno le stesse cose. E qui il tema non è di troppe fiere che fanno la nautica, ma se ho ben capito di che ruolo deve avere questo salone nautico. Dottoressa De Maria, ancora un minuto di pazienza, ho il traffico e poi la sua risposta. Focus Economia. Allora, Presidente De Maria, insomma, la critica, se ho ben capito, io non conosco benissimo il settore e non ho nessuna preferenza, però di dire attenzione, è cambiato il mondo, il fatturato si è dimezzato nel settore ed è al 93% all'estero, il Salone Nautico di Genova fatto così rischia di essere solo una vetrina interna ma non realmente utile per quello che è il mercato adesso del settore nautico, se ho ben capito il ragionamento, un po' come se il Vinitaly, visto che siamo appena reduci dal Vinitaly, e forse ancora si sente, il Vinitaly si occupasse solo di produzione locale e non avesse tutti i buyers e i compratori delle reti commerciali estere. Dottoressa, prego. Semplicemente vorrei, prima di parlare del Salone di Genova, commentare le parole del dottor Galassi circa l'uscita dei cosiddetti big da uscita. Io sono spiacente che non abbiano assistito alla presentazione del mio programma in assemblea, perché hanno deciso di uscire prima di conoscere il mio programma, ma se di cambiamento avevano bisogno ne avrebbero sentito parlare molto. Io ho intitolato il mio programma Etica, Solidarietà e Cambiamento. Qualcuno degli associati dice che avrei dovuto scrivere Etica, Solidarietà, Rivoluzione. Quindi sto mettendo mano, e lo faremo in tempi record perché lo presenteremo alla prossima assemblea di maggio, stiamo mettendo mano allo statuto, la struttura interna sta lavorando alacremente, ce la faremo in meno di un mese, e il cambiamento desiderato, peraltro auspicato da tutti, perché è vero, non c'è più nulla uguale al passato, però certamente abbiamo incluso nel programma profonde modifiche. Ora sono spiacente che siano usciti prima di conoscerlo. Detto questo, il Salone Nautico rimane un fulcro, non è il solo, il programma è molto articolato. Per quanto riguarda il Salone di Genova, abbiamo sentito un po' di tutto, portarlo via da Genova, addirittura itinerante, come se le barche fossero dei gioielli che possiamo esporre nella hall di un hotel di lusso, cosa che non è possibile. Oggi Genova rimane l'unica vetrina possibile per il Made in Italy italiano. Sto parlando dell'industria manufatturiera italiana della nautica. Possiamo criticarlo, siamo aperti a tutte le critiche, ma oggettivamente oggi è la sola vetrina, è la sola iscritta nel circuito internazionale dei saloni. Come bene lei diceva, molti saloni, diciamo, di livello in termini di visitatori e anche di superficie di esposizione inferiori, non hanno neanche più avuto edizioni nel 2014, perché la crisi, è chiaro, ha colpito. Sono corretti i dati che ha dato: da 6 miliardi siamo passati a meno di 2,5, quindi siamo assestati sui valori del 2000. Detto sì. Questo, ci sono segnali positivi di ripresa. Allora, che prego. Che daranno al Salone Nautico 2015 un alleato in più. Allora, io vorrei chiedere una cosa, perché poi volevo anche fare un piccolo approfondimento che lancio poi in realtà l'approfondimento più grosso di martedì prossimo sull'Expo, però siccome, ripeto, il nostro interesse è sempre, noi tifiamo sempre Italia e sistema Italia, cioè il grosso errore anche di alcuni imprenditori, anche di alcuni settori di questo mondo imprenditoriale è stato delle volte di farsi la guerra a tutti i costi, non capire che tanto i cinesi erano alle porte, dico cinesi per dare l'idea di quello che sta cambiando fuori, non perché ce l'abbia con i cinesi e basta. Allora è chiaro che se uniste le forze noi saremo più contenti come paese, non me ne frega nulla, io non ce l'ho la barca, per cui saremo più contenti. Dottor Galassi, in un minuto scarso mi dica che cosa dovrebbe fare Ucina per, diciamo, riaprire anche una vostra partecipazione, e poi faccio la stessa domanda anche al Presidente De Maria. Prego. Allora, innanzitutto le rispondo dicendo che noi non abbiamo intenzione di entrare a Tucina, siamo già iscritti a Confindustria, siamo rappresentati da Confindustria e rappresentiamo il Made in Italy molto, nonostante per esempio la proprietà del gruppo Ferretti, l'ha citato prima, sia cinese al 75%. Dio li ringrazi perché hanno acquisito il gruppo con una rinnovazione del debito, certo, pagando tutti i fornitori oggi si sentono dei concordati o delle ristrutturazioni di debito al 10%, hanno investito 440 milioni, non abbiamo debito bancario, abbiamo 50 milioni di investimenti per cambiare 27 nuovi prodotti di tutti i marchi che le ha citato nei prossimi 3 anni, e Ucina non serve per tutto questo. Noi dobbiamo promuoverci all'estero, dobbiamo promuoverci assolutamente come uniti, come italiani, con sì, un'associazione. Però mi scusi, se capisco bene, quindi voi contestate Lucina stessa, quindi non è solo un problema del Salone Nautico, è proprio che non vi interessa stare dentro? Barisoni, Lucina, altro che il Salone Nautico, mi perdoni, mi spiace, faccio tanti auguri alla dottoressa De Maria, non fa, e mi spiego meglio. Noi siamo usciti da Lucina per non dividere Lucina, gli interessi nostri, e abbiamo 3.000 o 4.000 addetti come gruppi, tra indotto e diretto, e molti altri, perché non siamo usciti solo i grandi, sono usciti 10 o 12 o 15 aziende. Okay. Non ci troviamo più lì. Ho capito, non c'è... Galassi, ho capito, non c'è margine. No, è che anch'io il margine lo sto finendo come tempo, però. De Maria, prego. Mi sembra che non ci sia. Basta, la cosa è fatta. No, non dico che questa debba essere la camera di conciliazione di tensione all'interno dei settori produttivi, no, però io ci ho provato. Creda, mi dica. Io apprezzo il suo sforzo, ho fatto l'impossibile, ho detto che le porte non sono aperte e spalancate, ma non ad ogni costo. Una precisazione, prendo atto della volontà del dottor Galassi, che peraltro ha espresso con determinazione in più momenti, la sola associazione nautica iscritta a Confindustria è Lucina, poi tutte le nostre aziende sono iscritte a Confindustria, la sola associazione nautica iscritta a Confindustria è Lucina. Io spero, auguro tutto il bene a Galassi per questo futuro fulgido di Ferretti, io mi occuperò della mia azienda che non sta andando così male, è un bel esempio in questo momento di difficoltà del mondo nautico, ma spenderò un po' del mio tempo perché Lucina scriva nuove pagine. Allora, io non so come si dica in bocca al lupo, vento in poppa, come si dice? Non lo so, a chi, però bocca al lupo, in bocca al lupo a tutti, a lei Presidente Cara De Maria, perché ha un compito importante, non dico gravoso, ma importante, al gruppo Ferretti, perché noi tifiamo per tutti i gruppi italiani, anche quando la quota di maggioranza può essere in mano straniera, non ce ne frega nulla, l'importante è che i dipendenti e la manodopera resti in Italia. Grazie, buona Pasqua, anche senza così, insomma, era più da novembre che da Pasqua il tenore delle interviste. Buona Pasqua a ambedue, quindi alla Presidente di Lucina Confindustria Nautica Cara De Maria e all'amministratore delegato del gruppo Ferretti Alberto Galassi. Buona Pasqua e grazie. Beh, se parliamo di Expo, il sogno, I Have a Dream, è facile oggi. Tanto che sia pronto il Padiglione Italia, che sia pronta la maggior parte dell'Expo, visto che ormai anche il commissario Sala dice che non tutto sarà pronto, e che non inizino prima ancora delle inaugurazioni le polemiche. Ripeto, noi da come Radio 24 da oggi per tutti i venerdì avremo un'analisi nei GR della mattina e poi la settimana prima un viaggio in ciò che è ormai pronto dell'Expo. Oggi ne scrive anche Sara Monaci sul Sole 24 Ore. Sara, buonasera. Buonasera. Io ti faccio fare quello che si chiama in gergo un tease, cioè un'anticipazione, perché ormai il tempo sta finendo, poi ci riascoltiamo martedì dopo che tu ti sei rilassata con la Pasqua e tutto. Ma è vero che qua il Palazzo Italia, il Padiglione Italia, che comprende anche Palazzo Italia e altri edifici, sarebbe dovuto costare 63 milioni, adesso è già 93 milioni, cioè il 50% in più? Beh, diciamo che ancora non abbiamo l'idea di quale sarà la spesa effettiva, perché poi c'è una clausola importante, il prezzo a 93 milioni, che è diciamo la base d'asta completa, si raggiunge se Italiana Costruzioni, l'azienda capofila del raggruppamento di imprese che lo sta costruendo, porterà a termine per il 30 aprile tutto quanto, cosa che a questo punto sembra piuttosto improbabile. Mancheranno delle parti, magari non fondamentali, ma qualcosa mancherà e quindi la società Expo farà valere una diminuzione rispetto a questa cifra anche del 20%. Quindi la trattativa ancora, diciamo, è completata come schema, ma il soldo dovero lo sapremo soltanto il 1° maggio. Certo è che da quello che stiamo vedendo tutti i ribassi d'asta sono non soltanto nel Palazzo Italia, ma in quasi tutte le opere di Expo sono state per lo più vanificate, ecco. Allora, il tema c'è tutto, nel senso che tu dici se bisogna capire quanto arriva del palazzo e se è finito o no, perché c'è stata una riunione di 10 ore tra i legali della società Expo 2015 e quelli di Italiana Costruzioni. Quello risulta oggi e che abbiamo anche anticipato nel quotidiano è che effettivamente ci siano delle parti, questo almeno è stato sottolineato anche al governo, che dovrebbero mancare per il 1° maggio. Si tratta dell'auditorium, alcune parti degli ultimi piani e probabilmente qualche elemento decorativo. Questo significa che la società Expo potrebbe non chiedere, non dare 93 milioni ma un 20% in meno. Certo è che da 63 oggi si parla di una potenziale di 93 milioni, quindi evidentemente sono cresciuti i costi. Allora, poi Sala ha detto anche che hanno dovuto fare modifiche perché c'era un vizio di fondo nel progetto, un rapporto illogico tra uffici e spazi espositivi, chiedendo più spazi espositivi, quindi vuol dire che c'erano troppi uffici e pochi spazi, che è noto, no? All'Expo non servono gli spazi espositivi, servono gli uffici. Grazie Sara Monaci, buona Pasqua intanto, ci risentiamo martedì, così come l'auguro di buona Pasqua e un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e in questo caso anche a Pietro Lacorte che è in regia. Un auguro di buona Pasqua a tutti voi, soprattutto a chi la passerà lavorando. Noi ci risentiamo martedì, ecco la cavolata nel finale, martedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.